Follia del mondo, ciò che non è piace.

croce delizia, delizia al cor. Ah, se ciò verrà, uccidemi, sola mi sta, Dio offro. Sono franca, scelua, andrà a cercare la fede, non amato, dimenticami. L'amore mi starò, non lo troverò, misteriosa al te. Thank you.

Voglio a te fedel, ah sì, arrivo quasi in cielo, io vivo in cielo, ma l'universo è in memore, io vivo quasi in cielo, ah sì, io vivo quasi in cielo. Io vivo quasi in ciel. Annina, donde vieni? Da Parigi. Chi te il commise? Fu la mia signora. Perché? Che mai sento? Lo spendio è grande a viver qui solinchi. E tacevi? Mi fu il silenzio imposto. Imposto? Orma bisogna? Vite Luigi! Orvanne andrò a Parigi. Questo colloquio non sappia la signora. Il tutto valgo a riparare ancora. L'avvenir domandor qui.

fate pensateci, ne siete in tempo ancora, ed io che spira giovine, ed io che spira giovine, ed io che spira tra i detti angeli tuoi. Supra parlo, ditegli. Non crederò. Partite. Seguirò me. Allor. Qual figlia, qual figlia m'abbracciade, forte così sarò, tra breve il vecchio reso, afflito il tre ogni dire, a sua confortati con la volrete. E pensate, sapendo il vorreste al ben sier mio. Generosa è per voi che far possio, e far possio, o conosca il sangue. gli scrivevi. A te? Dammi quel foglio. No, per ora. Mi perdona, sono io preoccupato. Che fu? Giunse mio padre. Lo vedesti? Ah no, severo scritto mi lasciava. Però l'attendo, t'amerai invaderti. E qui non mi sorprenda, lascia che m'allontani. Tu lo calma, ai piedi suoi mi gemerò. Divisi più non ne vorrà. Sarò infelici, perché tu m'ami, Alfredo. Tu m'ami, non è vero. Tu m'ami, Alfredo, non è vero. Quanto perché piangi di lagrime a me a tuo son tranquilla lo vedi ti sorrido lo vedi ma son tranquilla ti sorrido 听众朋友，刚才您欣赏到的是由阿基列斯、贝里托纳、莫奈特演唱，罗马歌剧院合唱团乐团演出，塞拉芬指挥的意大利作曲家威尔蒂的歌剧《茶花女》上半部分录音。稍后请您继续收听。 北京人民广播电台有线古典音乐广播，有线调频98.6兆赫。 感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 听众朋友，这里是北京音乐广播古典音乐有限频道调频98.6兆赫的歌舞剧场节目。接下来的时间中，请继续欣赏由安吉列斯、贝里托纳、莫奈特演唱，罗马歌剧院合唱团乐团演出，塞拉芬指挥的意大利作曲家威尔蒂的歌剧《茶花女》下半部分录音。 Natio fulgente sol, qual destino ti furò, qual destino ti furò, al natio fulgente sol, ora menta pur nel duol, vi gioia te brillò, e che pace cola sol, su te splendere ancor può, e che pace cola sol, su te splendere ancor può. Thank you.

basta, basta! È simile, mi credete? Ma no, non mai! Ma che temete? Tremo sempre del barone! E fra noi mortal quistione, se cadrà per mano mia un sol colpo vittoria, un sol colpo vittoria con la mano del protettore! Va derisce tal sciagura. Oh, se fosse l'uccisore, ecco l'unica sventura che io m'avvento a me fatale. La mia morte, che va in pare? Departete, e solo istante. Partirò, ma giura in ante che ovunque seguirai, seguirai i passi miei. Ma no, già mai. No, già mai. Va sciagurato, scorda un nome che infamato va mi lascia sul vendere a facerti il giuramento sagrio feci. A chi? Dillo, chi potea? A chi dritto piena vea? Fu tu fai? Sì. Dunque l'ami? Ben l'amo. Or tutti a me. Questa donna conoscete, che facesse non sapete. Oh, taci! No. Ogni sua ver tal femmina per amor mio sperdea, io cieco vile misero tutto accettar patea, ma tempo ancora targermi da tanta vecchia bramo qui testimon vi chiama, or testimon vi chiama, or testimon vi chiamo, che qui è qui pagata. L'alma più non ragiono, dai perdono, più non avrò. Volle a fuggirla, non ho potuto, dall'ira spinto son qui venuto, orché lo sdegno ho disfogato, m'è sciagurato rimorso. Ma questa donna, I'm

che val sarà, sa tutto che io so che al fine reso mi sei. Da questo palpito si adama in pace, senza desistere più non potrei. A sangue in vita, ma il rito vado, rito uccidere, non puoi dolore. Scorda l'affanno, donna volata, a me perdona il genitor. Io ti perdoni, l'aria son io, ma solo amor d'annir in te. L'uomo debba l'angel mio, mai più dividermi potrà da te. L'uomo debba l'angel mio, mai più dividermi. Mai più no, mai più no. Tutto il futuro Di più non lacerarmi, troppo rimorso l'alma mia. vorrei dirmelo, dei vive la Maria, ma straziati dall'Iri, qui non mi trasa il Dio, qui non mi trasa. 我喜欢旅游，喜欢拿着单反到